di Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, bentornati, nuova puntata di Zibaldone, la seconda di questa stagione. Cominciamo con un po' di musica, una news che ci introduce il tema della puntata di quest'oggi. Perché ci sono cose che si possono dire, ci sono cose che si possono dire solo a qualcuno, ci sono cose che non si possono dire, che non si possono dire. Mentre gli aerei solcano i cieli nel mondo, un miliardo di automobili e le televisioni si rincorrono nel mondo, io mi perdo ogni giorno nel mondo, tra gli scaffali del supermercato sotto casa, e dovrei sempre rimediare a tutto quello che non sono stata mai. Leggi le classifiche, brucia le classifiche, non accontentarti mai, al limite spara al DJ. Scorri le classifiche, brucia le classifiche, lo so che non è permesso, ma spara a quel DJ. Metti da parte i dubbi, amore, non aver paura questa volta. Non potremo vivere di rimorsi, mi osserveranno con un drone in un conflitto a bassa intensità. Qualcosa cambierà. Leggi le classifiche, brucia le classifiche, non accontentarti mai, al limite spara al DJ. Scorri le classifiche, brucia le classifiche, lo so che non è concesso, ma spara a quel DJ. Leggi le classifiche, brucia le classifiche, certo niente di personale, ma non credo ti perdonerei. Guarda le classifiche, pensa alle classifiche, come ho fatto a rimandare, a non cambiare quel DJ. Questa metropolitana dove non mi riconosci, perso nel tuo schermo, fare i conti col proprio passato, con tutte le volte in cui non ho votato, dove non ti ho parlato. Leggi le classifiche, brucia le classifiche, non accontentarti mai, al limite spara al DJ. Scorri le classifiche, brucia le classifiche, lo so che non è permesso, ma spara a quel DJ. Leggi le classifiche, brucia le classifiche, certo niente di personale, ma non credo ti perdonerei. Guarda le classifiche, pensa alle classifiche, come ho fatto a rimandare, a non sparare a quel DJ. Non esiste il paradiso, forse neanche l'inferno, anche la libreria all'angolo chiuso, e il futuro è più incerto. Vienimi a prendere in moto al lavoro, che alla fine ti ho sempre amato, non come i nazisti dell'Illinois, i nazisti dell'Illinois. La prendiamo forse un po' alla lontana per parlare della tematica al centro dello Zibaldone di quest'oggi con questa canzone, Nazisti dell'Illinois, uscita ad aprile per anticipare il nuovo album che uscirà tra poche settimane, dei Delta V, una band che noi abbiamo molto a cuore. Flavio Ferri è stato spesso nostro ospite e anche autore di alcuni dei jingle di Zibaldone. Ma do subito il bentornato e auguro buon pomeriggio al nostro ergonomico Banzo. Banzo, come va? Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Beh, come va? È una domanda. Passiamo alla seguente. Dai. Perché spiega un po', spiega un po' questa cosa. È anche una riflessione sullo stato del mondo e l'argomento della puntata che, come hai detto, abbiamo preso un po' alla lontana con questa canzone, ma Tant'è perché il titolo dello Sbaldone di oggi è 3 anni di Meloni e effettivamente poteva essere una buona canzone d'apertura, anche Prendilo tu, questo frutto amaro del Venditti tipo 95, anche se evidentemente sarebbe stata una specie di premonizione o una cosa ex post. Comunque, nazisti dell'Illinois, beh, la Meloni non è un nazista dell'Illinois, era una fascista di Roma, adesso lei non sarebbe più d'accordo con questa definizione, ma non mi voglio impelagare in questo discorso. Comunque parleremo, come si deduce dal titolo della puntata, di un bilancio di questi 3 anni di governo Meloni e la canzone, prima che tu annunci gli ospiti, la canzone sostanzialmente la prende un po' alla lontana, il testo l'avete ascoltato, è anche piuttosto elusivo, però i Delta V lo descrivono così, cioè i nazisti dell'Illinois sono tutte quelle frange di esasperati che sfogano le loro paure in derive come l'hashtag online, il suprematismo o il complottismo. Ed ecco Steven che con questa spiegazione magicamente la canzone c'entra tantissimo. Eh sì, dai Blues Brothers, no? I nazisti dell'Illinois, lì il riferimento al film di Landis, in realtà a quello che sta succedendo anche negli Stati Uniti nell'attualità, insomma ne parlavamo prima fuori onda, Banzo, originario dell'Illinois era quello che ormai è stato definito il nuovo martire della libertà, della verità, addirittura del cristianesimo oltre che dell'America, Charlie Kirk, che è diventato la specie di scusa per una svolta autoritaria non solo a Washington negli ultimi giorni. Allora sì, era nato e cresciuto in Illinois e visto che ormai qui siamo questo gioco stupido delle definizioni, io l'ho visto, cioè, e ovviamente i suoi fautori lo hanno definito un santo eccetera, i detrattori sì, c'è più varietà, c'è chi lo ha definito nazista, fascista eccetera, ma secondo me per quel poco che posso capire non era nessuna delle due cose, era chiaramente un razzista e un fondamentalista cristiano. Poi il fondamentalismo cristiano è una posizione che negli Stati Uniti si avvicina molto al fascismo, però non mi sembrava un fascista nel senso politico del termine, se capisci cosa voglio dire. Però come prova del 9, diciamo che se tu vai a vedere chi lo idolatra in questo momento, di fascisti, nazisti, gente del Ku Klux Klan, eccetera, ne trovi parecchia, quindi diciamo che così potremmo chiudere questo discorso potenzialmente circolare su come definire Charlie Kirk, a parte che evidentemente è stato eletto a martire, come sottolineavi anche tu. Mala tempora, come dicevano i latini. In ogni caso, per parlare dei 3 anni di Meloni, quest'oggi avremo con noi due ospiti, Cinzia Asciuto, direttrice di Micromega, e Francesco Olivo, corrispondente da Roma per il quotidiano spagnolo L'Avanguardia. Visto che il tempo stringe in radio e poi le chiacchiere ci portano lontano, Banzo, prima di sentire Cinzia Asciuto, annunciamo il brano che ci andiamo a ascoltare orora, che ha a che fare con Barcellona ma anche con la situazione politica italiana. Beh, ascoltiamo Isa and the Visions con il brano Fuori dalla Porta. Isabella Privitera, in arte Isa, bolognese, ha trascorso 4 anni nella nostra città, penso si possa definire così a questo punto, dove ha studiato al Taller de Musics e torna in Italia, però è un'Italia popolata da figure come Meloni, San Giuliano, Santanchè, Vannacci e compagnia cantante, e quindi scrive questa canzone che è una, viene definita in uno slancio di autocritica, meglio dire autoironia, easy e un po' banale, che racconta lo spaesamento di fronte al ritorno in Italia, una classe dirigente da van spettacolo. Questo brano compare nel secondo EP di Is and the Visions, che è uscito quest'anno in attesa di un esordio sulla lunga distanza, come si diceva una volta. E allora ce ne andiamo a sentire Fuori dalla Porta, questo è il titolo, e poi parliamo con Cinzia Asciuto. E vado a farmi un giro a Times Square. Ora Piccadilly. Non mi oriento più. Allora vado in India. Magari meditando poi mi trovo. E non mi piaccio più. Il padre della destra sarà Benito Dante o Galileo. Dai, ma si scherza, non si può dire più niente. Non ricordo più. Lo chiedo alla ministra. L'ha detto l'altro giorno alla TV. Ma che era Canale 5? Che nel mondo serve un cambio di son gay. Ma che esagerata. Non capisco più. Finita la triennale, mi perdo per le strade di Taipei. Ma vabbè dai, mi laureo a novembre. Non ci torno. Fuori dalla porta. E per parlare di questi tre anni ormai quasi di governo Meloni, tra gli ospiti di quest'oggi abbiamo con noi Cinzia Asciuto, direttrice di Micromega. Cinzia, innanzitutto benvenuta a Zibaldone, un piacere averti con noi. Grazie mille per l'invito, è un piacere mio. E tra l'altro Micromega, che segue da tanti anni, come immagino i nostri ascoltatori sappiano, la politica italiana, non solo ovviamente la politica italiana, in questi ultimi tempi insomma ha seguito con attenzione anche quello che sta facendo il governo Meloni, come sta cambiando la società italiana, l'impatto delle politiche portate avanti dal governo Meloni. E infatti a marzo di quest'anno, numero 2 del 2025 di Micromega, è stato proprio dedicato il cartaceo. A questa tematica lo trovate facilmente sia online sia se lo volete acquistare in cartaceo. Il titolo è Povera Patria, l'Italia al tempo di Meloni. Cinzia, domanda risposta subito. Qual è secondo te il bilancio che si può fare dopo ormai tre anni di Meloni al governo a Roma? Ma diciamo che dal nostro punto di vista è un bilancio molto negativo e però coerente con le aspettative, nel senso che questo è il primo governo nella storia della Repubblica Italiana guidato dagli eredi del Movimento Sociale Italiano, che è quel partito direttamente collegato, costituito dai fascisti che sono, diciamo, sopravvissuti, mettiamola così, alla Repubblica di Salò e a quello che ne seguì. Quindi, diciamo, questo governo ha rappresentato un punto di svolta nella storia politica italiana e noi fin da subito abbiamo drizzato le antenne, perché nonostante Giorgia Meloni si sia presentata e volesse presentarsi soprattutto sul parterre internazionale come una figura rassicurante che non avrebbe messo e compromesso la posizione dell'Italia, eccetera, eccetera, però noi abbiamo rilevato subito che c'era una distanza enorme tra la percezione che Meloni dà all'estero e quello che invece fa in patria. Quindi, mentre all'estero lei appunto viene percepita come una fonte di stabilità, è quasi una moderata, no? Si dice. È considerata quasi una moderata, tanto che addirittura si ragiona all'estero sulla melonizzazione. Sulla possibile melonizzazione di altri movimenti di estrema destra, no? Si ragiona sul fatto, ma chissà se per caso, non so, Le Pen arriva al potere in Francia, magari si melonizza, sottintendendo che ci sia stata appunto in Meloni e nel suo partito una moderazione, diciamo, una volta arrivati al governo. In realtà noi da dentro osserviamo che questa moderazione è una pura foglia di fico e in Italia, nelle politiche, in particolare nelle politiche interne, sta mettendo in atto delle politiche tipiche della destra autoritaria. Faccio soltanto due esempi, ma poi ne possiamo fare altri se vuoi. Il primissimo provvedimento di questo governo, provvedimento bandiera, fu, forse lo ricorderai e qualcuno degli ascoltatori potrà forse ricordarlo, fu il decreto contro i rave party, decreto legge, come se fosse l'urgenza più preoccupante del paese. E poi ci fu, ma insomma quello davvero preoccupante, quello che davvero sta cambiando, già sta avendo degli effetti di riduzione degli spazi di libertà in Italia, è il DL sicurezza, che sostanzialmente criminalizza il dissenso e tutte le forme di espressione del dissenso stesso. Sono dei provvedimenti pensati, diciamo cuciti addosso ad alcune forme di protesta e di mobilitazione. Penso a quelli che appunto esponenti di questo governo chiamano gli ecoterroristi, che poi sarebbero dei ragazzi che gettano della vernice lavabile, peraltro di solito, su monumenti. Ecco. Quindi sono tutti segnali molto preoccupanti, ma devo dire totalmente coerenti con l'ideologia di questa destra di governo. Ascolta, parlavi appunto della criminalizzazione della protesta, no? Che è forse il concetto sotto il quale possiamo riassumere questa perdita di diritti che tu citavi. Ma ci sono, io credo, dimmi come la vedi tu, anche altri elementi, no? Preoccupanti e importanti se vogliamo fare questo bilancio. Uno riguarda appunto gli spazi della libertà anche nell'opinione pubblica, penso alla stampa, penso ovviamente alla radio televisione pubblica, ma non solo, e dall'altra anche due progetti importanti che hanno a che fare, anzi tre, mi correggo, delle riforme costituzionali che cambiano insomma come è stata concepita in realtà l'Italia dai costituenti dopo la fine del fascismo. Non c'è dubbio, è cruciali. Andando con ordine, sulla questione della libertà di stampa possiamo mettere in fila alcuni fatti che sono un po' emblematici e ci raccontano di quello che significa questa destra al governo. Qualche mese fa c'è stata una vicenda che in Italia ha fatto molto scalpore, cioè la censura, la vera e propria censura di un monologo che lo scrittore Scurati avrebbe dovuto tenere in vista del 25 aprile in un canale Rai, e che è stato bloccato, la cui messa in onda è stata bloccata proprio poco prima della messa in onda. Si sollevò un polverone e la conduttrice di quella trasmissione, che poi diciamo denunciò il fatto, quindi rese pubblica la notizia, non la tenne nascosta nelle stanze della RAI, subì un procedimento disciplinare. Ovviamente Antonio Scurati è una figura di un livello tale che non ha subito lui stesso nessun danno diretto da questa vicenda, ma innanzitutto la giornalista in questione sì, e poi questi episodi valgono come ne colpisco uno per educarne 100, no? Valgono per creare un clima nel quale si dice: state attenti, fate attenzione a quello che dite, perché poi noi usiamo le leve del potere che abbiamo. E questo è molto molto preoccupante. Pochi giorni fa invece, per arrivare a vicende più recenti, la nostra Presidente del Consiglio, che sostanzialmente si rifiuta di parlare con i giornalisti, e lo ha anche ammesso in un fuori onda quando è stata a Washington, esatto, con Trump, perché Trump invece si confronta molto volentieri con i giornalisti, certo solo con quelli che vuole lui ovviamente, ma invece la nostra Presidente del Consiglio è anche così, quindi non parla con i giornalisti, non indice conferenze stampa, non rilascia interviste che non siano concordate, e invece domenica scorsa è andata a Domenica In, che è una delle trasmissioni popolari più famose, più note in Italia, a parlare di temi assolutamente secondari, dei pranzi della domenica o cose del genere, ed era un'evidente come dire, uscita elettorale, perché noi siamo in Italia in questo periodo in elezioni regionali, sono diverse regioni importanti in Italia che vanno al voto. E, ecco, questo per dire che la destra meloniana sta occupando tutte le leve del comando nella RAI, e lo sta usando il servizio pubblico piegandolo alla propria propaganda. C'è di più però su questo tema, c'è una questione meno, un po' più sottile, meno nota, che è quella delle cosiddette denunce, querele temerarie. Le querele temerarie sono quelle querele che vengono fatte da, tendenzialmente da personalità politiche, economiche molto potenti nei confronti di gente che non ha potere, di solito dei giornalisti, spesso di testate indipendenti, eccetera, che sono querele che molto spesso finiscono nel nulla perché non hanno nessun fondamento, ma non hanno lo scopo di ottenere un risultato in tribunale, ma hanno il solo scopo di intimidire. E di queste querele, di questo tipo di querele, sono stati fatti degli studi nel nostro volume, li citiamo uno per uno. Questo tipo di querele sono aumentate in maniera vertiginosa nei tre anni ormai di governo Meloni, a partire sono querele che partono proprio da personalità esponenti esattamente di quello spettro. La stessa Giorgia Meloni, per esempio, ha denunciato un comico reo di aver fatto un podcast piuttosto ironico, un comico indipendente, non era neanche su grandi TV, eccetera, e sta chiedendo 20.000 euro di danni, che ovviamente per lei non sono nulla, ma per questa persona rappresentano una fortissima intimidazione. Sul fronte, sì, no, volevo passare perché questo è importantissimo, tutto quello che stai dicendo, ma credo che ci sia poi qualche minuto, dobbiamo dedicarlo, io credo, ai progetti di riforma. Sì, perché alle riforme, tra l'altro, una è stata definita da Meloni la madre di tutte le riforme. La riforma, sì, appunto, del premierato. La riforma del premierato, che però è quella che si è ancora, che è ancora più indietro, diciamo, nell'iter parlamentare, quindi è quella anche più complicata da portare avanti e non ha avuto ancora dei passaggi parlamentari importanti, mentre li ha avuti la riforma della giustizia, che in realtà io chiamo la riforma della magistratura, perché non ha a che fare col sistema giustizia, non è una riforma che davvero migliora il sistema giustizia in Italia, ma è una riforma che punisce la magistratura considerata nemica, ed è la riforma che ha sempre voluto Silvio Berlusconi, quindi si arriva a portare a compimento il disegno berlusconiano. Queste tre riforme, la terza è l'autonomia differenziata, che non è una riforma costituzionale ed è una legge ordinaria, e quella è già passata, è già legge, però è già legge, è stata un po' depotenziata dall'intervento della Corte Costituzionale, però sono tre riforme che hanno un solo scopo, hanno lo scopo di rafforzare il potere esecutivo e di indebolire pesantemente il Parlamento e tutti i poteri che dovrebbero controbilanciare quello dell'esecutivo, a partire appunto dalla magistratura e poi appunto, come abbiamo visto, l'atteggiamento nei confronti dell'informazione è un ulteriore segno di questo tentativo di accentramento di potere nell'esecutivo e indebolimento dei poteri tipici delle democrazie liberali. Ascolta, abbiamo due cose volevo ancora domandarti velocemente. La prima, io considero il caso dell'Italia meloniana come una specie di via italiana all'urbanismo, per dirlo con una formula un po' ironica. Ecco, tenendo conto un po' e sommando un po' tutti i puntini, no, le cose che hai ricordato in questa chiacchierata, ecco, tu ti trovi d'accordo con questa definizione o in realtà dici, certo, è un governo molto di destra, però il rischio di urbanizzazione è molto lontano. Ecco, come la vedi? No, io penso che sia più pericoloso di Orban, perché appunto più nascosto, più subdolo, diciamo, perché appunto Orban, per esempio, nel contesto internazionale è percepito come un'anomalia, le sue posizioni sulla Russia, le sue posizioni su Gaza, su Israele, in generale il suo rapporto con l'Unione Europea è talmente di scontro che non riesce a essere accettato, diciamo, nel consesso internazionale. Invece Giorgia Meloni è riuscita in questo piccolo miracolo, da questo punto di vista le si deve dare atto, ha capito che lei ha bisogno del resto del mondo, diciamo, soprattutto dell'Europa, per rimanere al potere, e dunque ha deciso di mettere da parte quelle che prima erano delle sue parole d'ordine, lo scontro con l'Unione Europea, gli attacchi all'Unione Europea erano costanti nella sua propaganda, però ha deciso di metterli da parte perché ha bisogno di apparire affidabile nel contesto, e questo le consente di utilizzare una mano ancora più forte all'interno, nella politica interna, perché da fuori non arriveranno mai delle osservazioni critiche, o come invece accade per Orbán, no? Quando anche delle vicende interne in Ungheria l'Unione Europea prende posizione. In Italia non accade mai, passa il decreto sicurezza, che è un decreto anticostituzionale, che è un decreto che pone dei gravissimi limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, e l'Unione Europea non si è sentita. Ascolta, ultimissima domanda, rapidamente, telegrafica se riesci, guardando l'altra faccia della medaglia, ossia la società civile italiana, cosa è cambiato in questi 3 anni? Si scorgono dei cambiamenti, una società che insomma sta cercando di reagire a questo, o per dirla così brutalmente è una morta gora? Come la vedi tu? È difficile da dire, perché dipende moltissimo dai contesti e dai temi. Per esempio, io penso che il decreto sicurezza abbia avuto pesanti ripercussioni sui movimenti ecologisti, che si sentono ormai pochissimo, non Ultima Generazione, Fridays for Future, eccetera. Sono diversi mesi che non riescono più a operare, perché si stanno forse riorganizzando anche, stanno cercando di capire, ok, in questa nuova cornice come possiamo esprimerci. Noi parliamo oggi, a pochi giorni, da una grande mobilitazione però che c'è stata in Italia. Lunedì scorso c'è stato uno sciopero generale indetto tra l'altro da piccole sigle sindacali, quindi non dai maggiori sindacati, che però ha avuto un enorme successo, ha riempito le piazze, ed era uno sciopero indetto per Gaza. Questo vuol dire che su alcune tematiche, su alcune questioni, la società civile italiana è ancora recettiva ed è in grado ancora di mobilitarsi. Io temo che però siano, diciamo, non siano dei movimenti che poi hanno una resistenza nel tempo, quindi si è riusciti probabilmente a fare queste mobilitazioni, ma difficilmente sono movimenti che si strutturano nel tempo. E su questo l'intervento pesante e limitativo del governo Meloni ha certamente un grosso effetto. Vedremo gli sviluppi, e speriamo che davvero in questi prossimi 2 anni ci sia un cambiamento al riguardo. Cinzia Asciuto, direttrice di Micromega, grazie davvero di essere stata con noi. Grazie a voi. Zibaldone. Radio Contrabanda. E ora invece abbiamo in collegamento telefonico con noi Francesco Olivo, corrispondente dell'Avanguardia dall'Italia. Francesco, innanzitutto bentornato a Zibaldone, un piacere averti di nuovo con noi. Ciao Steven, grazie per la telefonata. Ascolta, 3 anni di Meloni, un bilancio, ne abbiamo appena parlato anche con Cinzia Asciuto, un punto di svolta nella storia repubblicana, Meloni moderata, diciamo, per chi guarda da fuori l'Italia, invece in realtà che porta avanti un'agenda molto più radicale di quello che vuol far credere dentro. Questo è un po' forse il riassunto dell'opinione, no? E delle idee di Cinzia Asciuto. Tu sei d'accordo o vorresti, invece hai un'idea un po' diversa? Ma io penso che tutta questa prima stagione di Meloni, questi primi 3 anni di Meloni, sono stati segnati da una sua costante ricerca di equilibrio tra una politica economica e una politica estera tutto sommato in continuità con quella dei governi precedenti, e invece una spinta, diciamo così, identitaria, più di destra in altri aspetti di politica interna. Io credo che questa sia, diciamo, la chiave per capire questi anni che sono stati segnati, quindi è vero in parte quello che abbiamo detto fino adesso. Io però penso anche che tutto sommato chi temeva diciamo così un'Italia che in politica estera, in particolare nella politica europea, diventasse una sorta di polo antagonista, no, con l'Ungheria e con altri paesi dell'est, con la Polonia prima del governo Tusk, tutto sommato si è tranquillizzato. Quindi è chiaro che all'estero sono state notate con sorpresa certe posizioni tutto sommato moderate in politica estera, in particolare in quella europea. Proprio su questo volevo concentrarmi anche con te, appunto, la politica internazionale di Meloni. Qualcosa l'hai già accennato, però è anche importante tenere conto anche degli sviluppi che ci sono stati in questi tre anni fuori dall'Italia, le elezioni europee dell'anno scorso, certo, le elezioni di Trump negli Stati Uniti. Ecco, come si è mossa e come si sta muovendo Meloni, e se possiamo anche immaginare come secondo te in questo scenario in profondo cambiamento si potrebbe muovere in questo finale di legislatura? Beh, allora sicuramente facendo, come dire, un primo bilancio di questi tre anni, sicuramente un momento importante è stato, sono state non tanto le elezioni europee quanto il dopo, no? E quindi la conferma di Ursula von der Leyen, che già appunto nella fase precedente alle elezioni tutto sommato aveva trovato con Meloni un dialogo che ha distinto Meloni da quelli che poi sono diventati i cosiddetti patrioti, no? Quindi Orban, Le Pen, lo stesso Salvini, yes, ma l'ha distinta anche dai suoi alleati della destra, dell'estrema destra, dei cosiddetti conservatori, no? E per esempio dai polacchi e da Vox, che poi ha fatto il salto nei patrioti, perché questi partiti si sono chiaramente messi all'opposizione, o comunque si sono messi contro Ursula von der Leyen, la sua ricandidatura, mentre Meloni, con una certa ambiguità, no, votando contro in Parlamento la elezione di Ursula von der Leyen, ma poi a favore del suo esecutivo, dove un personaggio chiave del governo Meloni come Fitto è vicepresidente. Quindi quello secondo me è stato un momento chiave, dove lei ha giocato come dire, le sue carte tutto sommato con una certa abilità, senza rinnegare la sua pulsione e la sua identità chiaramente di destra, di una destra radicale, però riuscendo a restare al tavolo, no? Ricordiamo che la cosa era cominciata con la sua esclusione dalle riunioni tra le famiglie politiche principali, socialisti, liberali e popolari, e poi lei in qualche maniera, secondo me spalleggiandosi con la von der Leyen, diciamo con un accordo tacito con la von der Leyen, è riuscita a entrare. Quindi quella è stata secondo me una fase importante. L'altra invece, uscendo dall'Europa, l'altra chiave è l'alleanza strettissima con gli Stati Uniti d'America, che sono stati chiave all'inizio per il suo sdoganamento e per la sua legittimazione internazionale, e all'epoca parliamo degli Stati Uniti con un'amministrazione guidata da un'amministrazione democratica, quella di Joe Biden, che ha avuto nell'Ucraina, diciamo così, il momento chiave, e poi proseguita a maggior ragione con Donald Trump, dove è iniziata un'altra stagione in cui lei, per ora senza nessun risultato, si è messa così alla testa, in teoria, di un dialogo europeo con Trump, che finora appunto ha portato pochi risultati, anzi quei pochi possiamo giudicarli molto negativamente, come quello sui dazi. E aggiungerei un altro elemento, no? L'Ucraina, tu in parte ne hai parlato, ma ci tengo forse anche a fare un approfondimento tenendo in conto anche di come sta cambiando lo scenario della guerra in Ucraina con l'arrivo di Trump, quello che abbiamo visto quest'estate, la riunione in Alaska e così via, e quindi qual è la posizione secondo te che Meloni cercherà di mantenere nel futuro. Tutto il dibattito all'interno della NATO, soprattutto, no, a partire dalla rielezione di Trump, e poi ovviamente la questione di Gaza, che non è una questione minore, al contrario. No, evidentemente Gaza, adesso ci arriviamo, è secondo me la possibile elemento di debolezza e di pericolo che ha Meloni, ma adesso ci arriviamo. L'Ucraina pure ha la sua complessità, perché finché c'è stata un'amministrazione americana che ha proseguito una politica discutibile come tutte, ma lineare, tutto sommato Meloni non si è distinta dal resto dei paesi europei. Il problema è cominciato sicuramente con le elezioni di Trump, che per quanto appunto formalmente auspicata da Meloni, da Fratelli Italia, che sono alleati del partito repubblicano americano, però ha creato solo instabilità, non solo quella che vediamo tutti, ma anche una difficoltà nei rapporti bilaterali e multilaterali, no? Quindi tra Europa e Stati Uniti. E l'Ucraina è un elemento di difficoltà, perché Meloni è, appunto abbiamo detto prima, ha avuto l'intuizione tutto sommato anche all'opposizione del governo Draghi di appoggiare la comunità internazionale, gli Stati Uniti, l'Europa nella difesa dell'Ucraina. E questo è stato fondamentale per, appunto, come abbiamo detto, la sua legittimazione internazionale. Quello che però adesso è molto più complicato è avere da un lato un presidente degli Stati Uniti così ondivago, che appunto l'abbiamo visto quest'estate, no, Ferragosto, quando ha prima fatto questo incontro show con Putin, il giorno dopo, pochi giorni dopo, ha convocato i leader europei, che si sono precipitati lì con, insomma, non molta dignità istituzionale, tutti prodigati lì a fare i complimenti a Trump, la cosa è finita nel nulla più assoluto. Quindi la difficoltà di Meloni è avere da un lato Trump che appunto non si capisce bene quale sia la sua strategia e la cambia in continuazione, dei partner europei che, specie Francia e Gran Bretagna, sono più Gran Bretagna ovviamente fuori Unione Europea, ma che fa parte della cosiddetta, no, coalizione dei volenterosi, esattamente. L'Italia con questi volenterosi all'inizio non ci stava, poi ci sta, adesso ci sta un po' meno, e insomma quello è una difficoltà. Aggiungo una difficoltà sull'Ucraina, che è quella che riguarda l'opinione pubblica, specie quella di centrodestra, ma non solo, che vede da tempo negativamente un impegno economico, finanziario e militare dell'Italia, in senso militare, dell'invio di armamenti, e a questo si aggiunge appunto l'ipotesi piuttosto vaga al momento di un impegno diretto militare, al quale Meloni si è velocemente detta contraria, anche per mantenere un certo, a parte l'opinione pubblica molto molto contraria, c'è anche un problema politico all'interno della maggioranza, no? E con una Lega che ormai in maniera sempre più, senza inibizioni, continua a occhieggiare a Mosca, rompendo ormai con le ultime dichiarazioni del generale Vannacci, vice segretario della Lega, ormai senza più complessi. Vorrei passare dopo brevemente, nei pochi minuti che ci rimangono, anche alla correlazione di forze della coalizione di destra. Però prima dicevi di Gaza, Francesco, no? Sì. È l'elemento forse che più può creare difficoltà a Meloni, dicevi. Ma in questo momento sì, perché io credo che le manifestazioni che abbiamo visto lunedì scorso in Italia, al di là degli scontri violenti eccetera, che hanno riguardato una minoranza, una piccola minoranza di invece un gran numero di manifestanti, io credo che l'opinione pubblica, lo dicono tutti i sondaggi, insomma non è un mistero, stia cominciando a interrogarsi in maniera molto critica su quello, sull'impotenza assoluta dei governi europei, diciamo dei governi in generale, rispetto al massacro della popolazione civile di Gaza e adesso dell'occupazione della striscia. E il fatto che Meloni sia stata costretta man mano a distanziarsi, lei come gli altri, distanziarsi dal governo Netanyahu senza però proporre alcun tipo di misura di apposta, che fosse di sanzioni o di interruzione di accordi con Israele, anzi addirittura opponendosi a prima al riconoscimento dello Stato di Palestina, poi a delle misure più drastiche che molto timidamente il Consiglio europeo la Commissione e il Consiglio stanno cominciando a pensare. Quindi diciamo che io credo che questo aspetto qui, Meloni perché lo fa, non perché appunto l'opinione pubblica non la seguirebbe nel caso in cui si decidesse una linea più dura con Israele, ma lo fa per non come dire, agire senza il consenso e senza la presenza in questo tipo di trattative del governo degli Stati Uniti. Questo è il punto. E quindi questa mancanza di coraggio, secondo me, io credo che possa essere un elemento, se purtroppo la situazione di Gaza dovesse proseguire così drammatica come tutto sembra, lo lascia pensare, io credo che questo è un elemento che la possa, come dire, indebolire, e queste manifestazioni così partecipate e così spontanee, perché tutto è nato da uno sciopero generale di un piccolo sindacato di base, non dei grandi sindacati, no? Quindi questo è interessante. E quindi io credo che questo possa essere un elemento di rischio, di debolezza. E un minuto telegrafico, se riesci, i rapporti nella coalizione, pensando anche a come è cambiata nell'ultimo decennio la correlazione di forza dentro la destra italiana, il berlusconismo insomma quasi scomparso, rimane lì con un 8-9%, la Lega dopo i fasti del 2017-18-19 si è abbassata fino appunto anche lì a un 8-9%, abbiamo Fratelli d'Italia che sembra ormai solido come, no, non più il junior partner della coalizione, che abbia davanti un futuro roseo. È così? Come la vedi? Ma sicuramente è interessante vedere come le proporzioni, la correlazione di forze sia la stessa più o meno da 3 anni, sicuramente dalle elezioni europee, no? È rimasta, anzi, con Fratelli d'Italia che è salito persino un po', il consenso personale della Meloni che pure è rimasto più o meno intatto. Questo secondo me si spiega con la fortunata coincidenza per Meloni che nessuno dei due alleati ha alcun interesse a come dire, forzare e far cadere il governo o comunque minacciarne la vita, perché non ci sono in Parlamento, in questo Parlamento, nessun tipo di alternativa. Quindi né Forza Italia né tantomeno la Lega può pensare a cosa diversa rispetto a quella successa nelle scorse legislature, non può pensare. Esatto, e quindi diciamo gesticolano e quanto più si avvicinano le elezioni più torneranno a litigare Salvini e Tajani per mostrarsi diversi, come abbiamo visto prima delle europee, fu anche piuttosto insomma violento lo scontro su alcuni temi, ma lei ha per ora, Meloni, la tranquillità che questo fa parte di una, come dire, di manovre interne alla coalizione che però non mettono a repentaglio la tenuta del governo. Aggiungo però un elemento di difficoltà all'interno della coalizione, sono la questione territoriale, nei territori, anzi, diciamo, non la questione territoriale, ma nei territori, perché stiamo vedendo che sono le elezioni delle Marche dopodomani, lunedì, ma anche andassero bene le regioni al voto, in particolare in Veneto e Campania e Puglia, che andranno al voto nelle prossime settimane, il centrodestra ancora non ha nemmeno il candidato. Certo. E questo è indicativo di un problema anche nella correlazione di forze, perché il partito più forte, Fratelli d'Italia, vuole essere, credo legittimamente, più rappresentato nelle candidature, in particolare nelle regioni forti, quindi Veneto e Lombardia. Francesco Olivo, grazie davvero di essere stato con noi e grazie alla prossima. Che male c'è, sto parlando con me, aspetto che si faccia giorno, fuori e dentro la città. È troppo tardi per fermarsi, troppo presto per andare. Resto sveglio e grido forte la mia voglia di sentire. Che male c'è, sto parlando con me, maledico le occasioni per potermi rimettere al mondo. Non escono da sole parole importantissime, e non è colpa mia se è tutto così difficile. Che male c'è, sto parlando con me. Da una vita che non mi fa paura, come fa paura a te, che telefoni in centrale, questo lo saprà mio padre, questo lo saprà. Sto parlando con te, e adesso pensi di far male con il tuo obbedire ad un ordine sbagliato, ma non c'è soluzione a quello che è iniziato. Così mi ucciderai, sì, lo farei, perché non vuoi capire, per quello che non sei, mentre colpisci in cinque, colpisci tutti quelli come me che incontrerai nella tua libertà. Riccardo Sinigallia, Che male c'è, un brano inciso nel 2018, in realtà era già uscito in una versione di Marina Rey qualche anno prima, l'album era Ciao Cuore, una canzone che mandiamo in onda, Banzo, perché ieri 25 settembre non era solo l'anniversario dei 3 anni dalla vittoria alle elezioni appunto legislative italiane, alle politiche del 22 della destra che apriva le porte al governo Meloni di cui abbiamo parlato nella puntata di quest'oggi, governo che sarebbe formato, come abbiamo anche già ricordato, un mese dopo, quindi alla fine del mese di ottobre, ma a un anniversario dobbiamo andare più indietro nel tempo, no Banzo, al 25 settembre del 2005, esattamente 20 anni fa. Sì, esattamente 20 anni fa, è stato il giorno in cui è stato ucciso a Ferrara Federico Aldrovandi, e la sua città, che appunto è Ferrara, lo sta ricordando questa settimana con una serie di eventi, convegni, la proiezione di un documentario È stato morto un ragazzo di Filippo Vendemiati, e ci sarà anche un concerto tributo che si terrà sabato 27, cioè domani. Sì, questa è una delle grandi ferite aperte dell'Italia degli ultimi 20 anni, questi casi che purtroppo per molti aspetti si assomigliano, c'è quello di Stefano Cucchi, c'è quello di Giuseppe Uva, ce ne sono altri, e la retorica delle destre, che non c'è bisogno che lo dica te, rimane indistruttibile, inattaccabile, sempre uguale, cioè garantire un appoggio incondizionato alle forze dell'ordine e la libertà di agire, incuranti del fatto che quando si afferma questo si sta rinnegando qualunque principio di proporzionalità, perché nel caso dell'omicidio di Aldrovandi, benché si cercasse di descrivere come un esagitato che dava in escandescenza eccetera, poi si è potuto appurare che si trattò di una morte completamente indiscriminata. Gli agenti sono stati condannati solo grazie allo strenuo lavoro della famiglia, ma sono già tutti in servizio, quindi è una vittoria di Pirro, come purtroppo succede in questi casi, perché vengono spesso reintegrati i carnefici. Non c'è molto altro da dire se non ricordare Federico come sta facendo la sua città e continuare a ripetere che questa è una battaglia fondamentale che combatteremo fino alla fine dei tempi con la destra, perché dubito che la loro posizione cambierà di una virgola. Al contrario, per quello che stiamo vedendo nel mondo in questi ultimi tempi. Ricordiamo solamente che appunto la musica ha avuto anche un ruolo importante per mantenere viva la memoria di appunto Aldrovandi. Questa canzone, nella versione di Sinigallia, in realtà era stata scritta, è un testo scritto dall'attore Valerio Mastandrea, e Marina Rey, lo dicevo prima, l'aveva incisa già nel 2012, qui invece ci siamo sentiti la versione di Sinigallia, che ne è stato appunto l'autore di questo brano. Banzo, noi siamo agli sgoccioli di questa puntata, però abbiamo tempo per l'ultimo trago, che anche in questo caso, come la puntata scorsa, in realtà è un omaggio, perché purtroppo pochi giorni fa, lo scorso 18 settembre, è venuto a mancare veramente un nume tutelare della canzone italiana e soprattutto della canzone politica, della memoria politica attraverso la canzone. Parliamo di Fausto Amodei. Sì, esatto, chiudiamo un'altra volta con un omaggio, come era stato nella prima puntata con Stefano Benni. Fausto Amodei è scomparso il 18 settembre all'età di 91 anni e sì, effettivamente è una di quelle figure per le quali è molto difficile non ricorrere ai superlativi, alle iperboli, ma non credo poi si accompagni più di tanto alla sua figura, però diciamo che ha avuto un'influenza su tutto lo spettro della canzone d'autore, anche sulla vita politica italiana, se vogliamo in un senso più ampio, molto molto estesa, e se può sembrare un'esagerazione quello che ho detto, bisogna considerare che è l'autore del 1960 di una canzone come Per i morti di Reggio Emilia, che è una canzone che è tuttora molto presente, che si ricorda e che diciamo raccontò in diretta un momento drammatico, quello delle proteste contro il famoso infame o famigerato monocolore democristiano a guida Tambroni, che appunto sfociò in un uso sproporzionato della forza, ancora una volta, anche nel 1960. Amodei appunto musicò in diretta e racconto diventa questi eventi. Però adesso la canzone che ascoltiamo adesso per ricordare Amodei, anche se ci vorrebbe ben altro spazio e ben altro tempo, è una canzone dedicata a un'altra questione che si ricollega in un certo modo, e ho sorriso amaramente perché è un eterno ritorno alla puntata di oggi, perché ascoltiamo Non è finita a Piazza Loreto, che è una canzone che parlava della persistenza dei post-fascisti nelle posizioni di potere nell'Italia repubblicana. È un tema che ha avuto un suo sviluppo coerente col progressivo sdoganamento dei post-fascisti e con, diciamo, il culmine che abbiamo raccontato gli ultimi 3 anni in questa puntata. Sì, sì. Una canzone del 1974, quindi siamo in un contesto segnato appunto dalle lotte sociali del lungo 68, il post autunno caldo, il referendum sul divorzio e la difesa appunto di quella conquista. C'è ironia, c'è sarcasmo, ma c'è sempre un grande engagement politico e sociale, come sempre è stato per Fausto Amodei. Ricordiamo che l'anno successivo, tra l'altro, sarebbe stato fra i primi cantautori a ricevere il premio Tenco 1975, e ricordiamo poi appunto che Amodei era stato uno dei fondatori del movimento dei cantacronache. Su Amodei torneremo, Banzo, perché a lui ve lo promettiamo, faremo prossimamente una puntata speciale, perché è importantissimo ricordare una figura come quella di Fausto Amodei. Non è finita Piazza Loreto, era il 74, dall'album L'ultima crociata. Con questo brano ci salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Banzo, grazie come sempre di tutto, e come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, dopo la fine del franchismo, alle 17.55-56, tutti i venerdì, diceva... Non dovrei dire qualcosa, dovrei sputare, perché ho ancora in bocca quel saporaccio del frutto amaro dei 3 anni di meloni. Ecco. Buon venerdì sera a tutti, ciao Banzo! Ma no, che non è finita Piazza Loreto, si è vinta una battaglia ma non la guerra, perché il taglio di una pianta non è completo finché le radici restano sottoterra. Se vuoi togliere sul serio anche la radice, rivolta tutto il terreno senza paura, non basta voltar la crosta e la superficie, ma devi volere proprio cambiar coltura. Se non cambi la coltura, se non fai presto a togliere la radice, ma tutta quanta, ti trovi ad avere fatto solo un innesto sul quale si riproduce la mala pianta. Non basta cambiar concime, cambiar letame, perché quella nuova pianta nasca diversa, finché le radici restano quelle grame, è solo materia prima che viene persa. La pianta che cresca poco, che cresca molto, estirpa la prima che sia cresciuta ancora. È meglio perdere un anno tutto il raccolto, piuttosto che tutto il campo vada in malora. Estirpa la mala pianta, ma tutta intera, perché non produca seme, non faccia frutto, quel frutto che fa venire la peste nera, quel seme che dà soltanto la morte e il lutto. Non basta stare a contar le nostre medaglie, ricordo dei nostri morti caduti allora, bisogna affrontare tante nuove battaglie per togliere il marcio che ci avvelena ancora, quel marcio che ci avvelena città e officina, famiglia, caserma, scuola e tribunale, quel marcio che può di nuovo portar rovina, che può far andare il nuovo raccolto a male. Fascismo è questo marcio che ci ricatta, che cambia colore ma resta sempre quello, che sopra l'orba ci ha messo la cravatta e che chiama sfollagente il manganello. sbirri fascisti ancora sono protetti da quei vecchi protettori, sempre da quelli che un tempo gli han fatto uccidere Gobetti e adesso gli fanno uccidere Pinelli. E quei vecchi protettori son parassiti che cambiano il vino buono tutto in aceto, ma noi gli dobbiamo gridare più forti e uniti che non ci può più bastare Piazza Loreto.